spunti di vista, i mille aspetti dell'attualità di Irene Zerbini. E ci auguriamo ancora una volta buongiorno, 16 minuti trascorsi dopo le 8. Dobbiamo in pochi minuti scattare un'istantanea con quei quadrangolari, quelli che ampliano il campo visivo, perché faremo due riflessioni su quella che è la situazione politica. C'è chi dice immobilizzata, c'è chi dice movimentata di questa mattina, per poi passare a chiedersi alcune cose su ciò che accade nella vita quotidiana. Per esempio, mentre ascoltavate, mentre facevate il pieno di notizie, avete forse allungato il braccio, chissà, fuori dal finestrino per dare quella famosa moneta al mendicante al semaforo. Ebbene, non fatelo perché aiutereste il racket. Questo almeno l'appello lanciato ieri a Milano da Pier Francesco Maiorino, assessore alle politiche sociali, alla cultura e alla salute del comune. Attenzione, è una frase piuttosto irrituale vista l'area di provenienza di Maiorino, e proprio di questo noi parleremo alle 9 qui in Spunti di Vista, chiedendovi: fate l'elemosina? Cosa pensate di fronte a questi mendicanti che si incrociano spesso ai semafori, per strada? Qual è il sentimento che prevale? A volte è di intolleranza, a volte di esasperazione, a volte di pena, pietà. Come regolarsi? Parleremo di un racket, parleremo di condanne. Condannato il racket dell'elemosina, infatti, proprio il titolo di una cronaca di ieri su Repubblica. Sono state inflitte pene tra i 7 e i 10 anni ai membri di questa banda che sfrutta l'invalidità e la sofferenza, naturalmente lo stato di sofferenza estrema, di queste persone che vengono prelevate direttamente negli orfanotrofi o in alcuni ospedali psichiatrici della Romania, ma non solo, nell'Europa dell'Est. Un capitolo che apriremo, dicevamo, direttamente alle 9, ma sul quale vorremmo sentire le vostre opinioni, la vostra esperienza, al numero verde 800 24 00 24, questo per il numero di telefono, oppure con i vostri sms al 349-238-6666. Cambiamo pagina ora. È musica proprio da ring, speriamo non si trasformi in un ring anche questa vigilia. L'attesa della sentenza della Cassazione, sempre più lunga, termini e tempi che si dilatano inesauribilmente, e ne vogliamo parlare con Marco da Milano, giornalista dell'Espresso. Buongiorno Marco, benvenuto. Buongiorno a voi. E con Aurora Lussana, buongiorno anche a lei, direttore. Buongiorno a voi e un saluto agli amici di Radio 24. Aurora Lussana è la direttrice o direttore. Lei che preferenze ha in questo campo? Io non faccio mai battaglie sul lessico perché vado alla sostanza e sono molto rispettosa del libero arbitro. Mi chiami come vuole lei. Aurora, direttore o, sì, o direttrice della Padania. Dicevamo, come aprite oggi innanzitutto? Ma noi stiamo dando ovviamente molto spazio ai cosiddetti provvedimenti ribattezzati svuota carceri, ce n'è uno alla Camera, uno al Senato in dirittura d'arrivo, è ovviamente una scelta del governo Letta, del governissimo Larghentese, che la Lega condanna prioristicamente. Cioè di che scelta sta parlando, scusi? Di quale svuota carcere, sì. Ma voi in particolare vi concentrate sulla questione dello stalking. Sì, perché per prima la Lega aveva detto: qui se noi mandiamo ai domiciliari la gente che ha condanne con pene edittali fino ai 6 anni, stiamo attenti che finiscono ai domiciliari anche gli stalker, poi ci sono anche quelli accusati di abuso in famiglia, tutti dei reati odiosi. Un mese fa la Lega si è messa a gridare, però lo sappiamo, i leghisti insomma sono sempre vittime un po' della paranoia antirazzista, sono considerati un po' dei beceri che gridano sempre, e spesso non veniamo ascoltati. Per ma chissà perché, cioè è un po' un vestitino, però mi scusi, che i leghisti si confezionano con le proprie mani. Ma no, è un comodo cliché dai, fa comodo così, perché alla fine poi ci hanno dato ragione sullo stalking. Adesso si sono scandalizzate tutte le donne lì, quelle che sono le professioniste dell'indignazione. Più o meno ieri c'è stata una mobilitazione, e al di là che è sbagliato proprio il principio, la ratio del provvedimento, perché noi stiamo sempre con Abele, nel paese dei vittimismi, che l'Italia mettiamo dalla parte delle vittime, vanno sempre condannati i colpevoli, i criminali, i delinquenti, quindi il provvedimento è sbagliato di principio, lo sappiamo, risponde quindi, ovviamente alla richiesta europea, direttore, si costruiscono le carceri e non si mette fuori la gente dalla galera. Direttore o direttrice, che dir si voglia, perché tanto lei non fa polemiche su questo, l'abbiamo precisato. Ieri abbiamo parlato proprio di questo, dal punto di vista della violenza sulle donne. Colpisce che abbiate scelto di aprire oggi, ignorando, immagino sia una scelta, la sentenza di Cassazione. Ma è tutto subordinato, perché in prima appunto stiamo dando molto spazio allo svuota carceri, perché è una battaglia storica della Lega, e abbiamo dato spazio a un'altra battaglia storica della Lega, ovvero l'anti-immigrazionismo. Noi siamo anti-immigrazionisti, quindi critichiamo le politiche filo-immigrazioniste del governo del nipotissimo Letta. Quindi la sentenza attesissima, no, che sta paralizzando il paese, è qualcosa che va nelle pagine interne, semplicemente perché noi siamo convinti di una roba: la politica deve essere la sovrastruttura dominante, la politica deve avere il primato. Io sono ferocemente contraria al clima di antipolitica di questi anni, perché una politica forte vince su ovviamente la finanza globale che schiaccia i popoli, e vince anche sulla per supremazia della giustizia. C'è un altro argomento. La politica. Prima pagina la do alla politica. Direttore, scusi, abbiamo capito il suo pensiero e abbiamo appunto illustrato anche la sua prima pagina. C'è un altro argomento che manca, però, proprio da questa prima pagina, e che fa molto discutere. Forse non è un argomento politico. Ho accettato volentieri di confrontarmi con il governatore Zaia alla festa della Lega Nord dell'Emilia Romagna a Milano Marittima il prossimo 3 agosto. Ma ritengo di poter mantenere questo impegno solo se fin da subito il segretario nazionale della Lega Nord, Roberto Maroni, farà appello ai suoi militanti, ai suoi dirigenti, affinché cessino immediatamente questi continui attacchi alla mia persona. Attacchi che, oltre a ferire la sottoscritta, feriscono la coscienza civile della maggioranza di questo paese. Lei, che è per la politica, questo non fa parte? No, però, allora, scusatemi, allora, se mi chiamate, cioè, in prima oggi raccontiamo quello che è successo lunedì sera a Cantù con la ministra Chienge, che ha incontrato per la prima volta il sindaco leghista di Varese, Attilio Fontana, e lì raccontiamo tutto quello che è successo, cioè che la Chienge lunedì sera a Cantù, io testimone, parco del bersagliere, tirava un aria, un freddo dopo la tempesta del pomeriggio che non vi dico, è arrivata, le hanno chiesto, la prima cosa che le hanno chiesto, ha visto che i consiglieri della Lega di Cantù hanno abbandonato l'aula per protesta contro l'amministrazione comunale di Cantù, perché hanno rinviato il PGT, la discussione del piano di governo del territorio, e non accettavano il fatto che la Chienge venisse così a fare un po' l'omelia alla Madonna, così per dire quello che voleva senza il dibattito. La Chienge ha risposto in maniera molto intelligente, senza vittimismi e autocommiserazioni patetiche. I consiglieri hanno fatto quello che credevano opportuno, dopodiché ha stretto la mano a mano al leghista Fontana, sono andati sul palco, un'ora di dibattito civilissimo. Potete andare sul sito della Padania, di Telepadania, e vi vedete il video. Quindi serata con il sindaco della Lega, tutto a posto. Lei ieri arriva in Consiglio dei Ministri, scusate, a Palazzo Chigi, fa questa conferenza stampa per presentare il piano triennale antirazzismo, che non si sarebbe filato nessuno, e abilmente tira fuori la storia degli attacchi leghisti. Premesso che quando uno fa il ministro e quindi è un rappresentante del governo e quindi di potere, ci sta che venga attaccato in ogni dove, perché a Berlusconi davano del nano criminale, alle sue ministre quando andava bene delle mignotte. Cioè lei dice, certo, lei dice fa parte, e il prezzo, essere paragonati, non so, a un orango. La Chienge è una donna di potere, ci sta che venga attaccata. Quindi, chiaro. È stata molto abile a manipolare i media, perché la sua conferenza sull'antirazzismo, che per lei è la priorità del paese, per me, io sono qui adesso in Valseriana, ci sono gli operai dell'Onegro, 800 euro al mese, io vengo da una valle quelle che... Lei dice sono altre le priorità, abbiamo capito. Aurora Lussana, Marco da Milano, giornalista all'Espresso. Allora ha sentito, buongiorno. Questa è un'abile manipolazione, perché altrimenti il piano antirazzismo non se lo sarebbe filato nessuno. Allora c'è un'emergenza razzismo in questo paese e soprattutto Maroni continuerà a fare da scudo a Calderoli e suoi o raccoglierà l'invito che ormai non viene più solo dalla Chienghe? No, io non credo ci sia un'emergenza razzismo, credo che tutte queste questioni siano molto mediatiche e molto strumentalizzate politicamente. Prima Aurora Lussana diceva c'è un cliché che viene attribuito alla Lega, ma mi sembra che in queste ultime settimane sia la Lega che disperatamente cerca un cliché da autoattribuirsi. Anche perché dopo la pausa estiva noi andremo verso una lunga campagna elettorale che ci porta alle elezioni europee, adesso a meno che non ci siano anche elezioni anticipate italiane, ma restiamo ai fatti. In giugno 2014 si voterà per le elezioni europee, sono elezioni con la proporzionale in cui ogni partito va con un simbolo, con uno stendardo, con una bandiera. La Lega, dopo anni di federalismo mancato, di devolution mancata, di riforme sempre promesse e mai attuate, ritorna su una bandiera antichissima che aveva anche superato, sinceramente, una specie di ridotta indiana o ridotta della Valtellina. Cioè da Milano. E ha scelto questa la bandiera, come diceva Aurora Lussana, anti-immigrazionista. Ora non ci sarebbe nulla di male ad aprire un serio dibattito sull'immigrazione, sulle modalità con cui gli immigrati vengono accolti in Italia, sui centri di accoglienza, sulla Bossi-Fini. Certo, tutto questo non può passare con gli insulti a un ministro che non è una donna di potere, almeno ha molto meno potere rispetto a quello di cui ha goduto Maroni negli ultimi 10 anni, ministro degli interni, segretario della Lega, presidente della regione più importante d'Italia. Beh, se stiamo parlando di uomini di potere, tra Chienge e Maroni, certo non è la Chienge la donna di potere. Marco da Milano, giornalista dell'Espresso, le faccio la stessa domanda. Voi come aprirete? Cosa troveremo sulla copertina? Sentenza di Cassazione? Noi abbiamo un bel problema, perché noi chiudiamo, per uscire venerdì, chiudiamo oggi all'ora di pranzo, quindi probabilmente non riusciremo a intercettare la sentenza della Cassazione su Berlusconi, per cui faremo i salti mortali per raccontare comunque ai nostri lettori le conseguenze sulla politica italiana di una sentenza che comunque vada, in qualsiasi caso, segna uno spartiacque di questa legislatura. Si parla molto di questa sentenza, d'altronde è un pezzo di storia italiana, un capitolo, ma gli ultimi 20 anni sono stati contrassegnati da Oliberi, Lodo Mondadori, adesso vado a memoria, la sentenza, certo. Mediaset, Ruby, e non ci sarà un po' anche di stanchezza da parte dei lettori? Sì, c'è stanchezza, direi, da parte di tutti, da parte dei lettori, direi anche da parte degli elettori. Non a caso lo stesso Berlusconi, che è sicuramente sensibile agli umori dell'opinione pubblica, dopo aver ripetuto per anni che la priorità, l'emergenza, l'urgenza assoluta di questo paese era la giustizia, in campagna elettorale, nella campagna elettorale del 2013, ha fatto completamente sparire questo tema dal programma elettorale, dai 10 punti, dando spazio a quello che interessa davvero l'opinione pubblica, che è l'emergenza economica, la recessione, e quindi chissà, forse si potrebbe fare anche con la copertina dell'Espresso stavolta. Ah, no, non certo, mi permetto di suggerire, certo. No, però vabbè, forse non fatto. Intercettare la sentenza di Cassazione, no, vabbè, non distruggerà le vostre vendite. No, ma per esempio l'ultima copertina era sulla casa, la copertina chiaro. Precedente era sull'evasione fiscale, quindi insomma, per carità, è chiaro che la sentenza della Cassazione però è un tema strettamente politico che interessa i nostri lettori. Indubbiamente. Aurora Lussana, 30 secondi prima di concludere, è stato detto dunque paga dal punto di vista elettorale questa nuova posizione della Lega, possibilità di replica, lei che è direttore della Padania. Ma sì, forse è solo un ritorno alle origini, forse una bandiera politica per uscire un po' dal pantano degli scandali veri o presunti, non lo so, sono tante le letture che si possono fare sulla Lega. Io posso testimoniare una cosa, che la Lega da quando è nata, ho fatto la tesi sulla Lega, conosco la storia dei manifesti, dei murales della Lega, nasce come movimento anti-immigrazionista. Noi siamo fortemente autonomisti, siamo per l'autodeterminazione dei popoli, quindi il razzismo è inevitabilmente legato a politiche colonialiste di sfruttamento dei popoli. Noi che siamo per il rispetto e l'autonomia di tutti i popoli, l'autodeterminazione, le secessioni che sono un diritto naturale dei popoli, si figuri se noi consideriamo che c'è una razza superiore che deve dominarne un'altra. Noi siamo per padroni a casa nostra, ci mancherebbe che andiamo noi a dire agli altri come vivere in casa loro. Ma per lei il razzismo è un insulto? Rimane un insulto essere tacciati di razzismo o no? Ma è la più grande aberrazione della nostra contemporaneità. Grazie. Se hanno quel sigillo lì ti delegittimano. Grazie, grazie Aurora. Dobbiamo purtroppo concludere, 32 minuti dopo le 8. Questa era Aurora Lussana, direttore della Padania, avete sentito, e Marco da Milano, giornalista dell'Espresso. Sono rimasti con noi per questa prima parte, apriremo un capitolo completamente diverso tra pochissimo. Spunti di vista, i mille aspetti dell'attualità. Di quale fila fate parte? Di coloro che si fanno vincere dalla pena e continuano a farla, l'elemosina, o di quelli che si girano dall'altra parte, esasperati, a volte consapevoli di alimentare uno sfruttamento con quella moneta? 35 minuti dopo le 8, ancora buongiorno da Irene Zerbini, e di questo parleremo dalle 9 in poi, quando apriremo i microfoni. 800 24 00 24, cominciate a segnarvi il numero telefonico, o potete inviare il vostro messaggio via SMS al 349 238 6666. E abbiamo concluso una parte in cui si sono toccati i temi forti legati al razzismo e alla normalità, alla consapevolezza o meno di azioni che si fanno. E questo tipo di discorso che porta ancora una volta a chiedersi: ma è responsabile una persona che occupa un ruolo istituzionale, magari, delle proprie parole in misura diversa da quello che parla di fronte a un piatto in osteria? Ha portato anche dei vostri messaggi, perché ci sono ascoltatori che dicono: non penso ci sia un problema di razzismo in Italia, questo è Riccardo, però trovo squallido che ci siano dei politici che si insultano sul piano personale. Ecco ancora i due livelli che si intrecciano. Stenta a passare anche tra chi usufruisce di questi eventi in maniera probabilmente involontaria, così come lettore, come ascoltatore, come spettatore, il concetto della responsabilità di qualcuno che occupa una posizione istituzionale. È sempre una questione di insulti personali, è una questione di insulti tra due individui che potrebbero comunque risparmiarseli. Torneremo nei giorni successivi a parlare di questo tema. Ora andiamo alla cronaca di qualche anno fa, con un ospite che saluto e ringrazio per essere con noi. Buongiorno, benvenuta Patrizia Moretti. Buongiorno. Ebbene, Patrizia Moretti è la mamma di Federico Aldrovandi. Ora, è necessario, per chi non abbia seguito forse in passato quello che è successo a suo figlio e quello che ha portato alla condanna di agenti, sintetizzare brevemente una vicenda che purtroppo si apre anni e anni fa, con tempi di giustizia che sono rivelati lunghissimi e naturalmente hanno portato anche solo per la lunghezza il loro carico di sofferenze, perché il caso Aldrovandi è una vicenda giudiziaria che ruota intorno all'uccisione di uno studente di Ferrara. Aveva 18 anni Federico. Il 6 luglio 2009 quattro poliziotti sono stati condannati in primo grado a 3 anni e 6 mesi di reclusione per eccesso colposo in omicidio colposo. Questa è una condanna che poi, lungo l'iter giudiziario, è stato confermato anche dalla Corte di Cassazione. Quanto poi alla fine abbiano scontato di pena detentiva effettiva questi poliziotti, lo chiediamo a lei, Patrizia, e perché? Hanno scontato, anzi finito di scontare in questi giorni, 3 su 4 di loro, i 6 mesi che erano loro rimasti dopo i 3 anni scontati dall'indulto. E 3 di loro sono già fuori, 2 erano in carcere, una, la donna Monica Segato, era agli arresti domiciliari. Il 4, Enzo Pontani, finirà tra un mesetto circa, perché è entrato appunto un mese dopo. Quindi loro hanno praticamente una pena di 6 mesi. E perché 3 anni e 6 mesi sono stati poi erosi, diciamo così, dall'indulto? In quegli anni, mi sembra fosse dal 2006, il provvedimento per l'indulto, che riguardava tutti i reati, non, nel dettaglio non lo so, ma sicuramente loro sono rientrati nel periodo compreso dall'indulto. Quindi l'indulto del 2006, e questa infatti fu una polemica grossa sollevata non solo da questo caso, non escludeva alcuni reati anche definiti così minori, però poteva essere applicato anche a reati di questo tipo. Oggi lei cosa chiede? Adesso sono passati 8 anni dall'omicidio di mio figlio, questi 6 mesi di detenzione in forme diverse non sono in realtà la parte più importante, in realtà forse anche l'entità della pena, che pure sì, lo riconosco, era minima rispetto a quello che hanno fatto, perché di omicidio si tratta, di un omicidio efferato, vorrei sottolinearlo, secondo quello che hanno detto i giudici dal primo grado in poi, questo omicidio è stato classificato come colposo per la mancanza di prove dovute all'azione di loro colleghi e funzionari della questura di Ferrara, che poi sono stati a loro volta condannati per i depistaggi e le omissioni, però di fatto hanno sottratto prove e hanno quindi ridotto il capo di imputazione, che avrebbe dovuto essere ben più grave. Sì, sottolineiamo e ricordiamo anche questo provvedimento e procedimento parallelo. Esatto. Nel 2010 3 poliziotti furono condannati al processo Aldrovandi bis proprio sui presunti depistaggi nelle indagini, mentre un 4° fu rinviato a giudizio e la decisione sui depistaggi aveva confermato appunto l'ipotesi dell'intralcio delle indagini fin dal primo momento. È esattamente così, è scattata diciamo una copertura per i reati, per l'omicidio che avevano commesso quei 4, ma una buona parte dei loro colleghi si è veramente attivata per coprire. Sicuramente quello che ne è uscito ha portato alle condanne di altri 3 funzionari, ma credo che molte cose siano rimaste veramente, cioè che loro siano riusciti nella loro azione di sottrazione di prove, questa è una realtà. Ma oggi lei cosa chiede? Perché lei sapeva che sarebbe arrivato questo giorno, diciamo così, il giorno del fine pena. Cosa sperava? Sì. Cosa ha sperato in questi 6 mesi? Io speravo che ci fosse un cambiamento, qualcosa, cioè che si sentisse un cambiamento. Forse anche in quelle 4 persone stesse che invece continuano a sostenere di essere loro stessi le vittime per avere fatto 6 mesi di pena dopo aver ucciso un ragazzino, e addirittura gridano allo scandalo perché 2 di loro sono rimasti in carcere invece di poter usufruire delle pene alternative. Basterebbe leggere veramente le definizioni che hanno dato di loro e dei loro reati i giudici in tutti i gradi di giudizio. Quindi devo chiederle, Patrizia Moretti, se gli agenti avessero dato segni di pentimento, diciamo così, sarebbe cambiato qualcosa per lei? Forse sì, penso di sì, che qualcosa sarebbe cambiato, ormai sicuramente è troppo tardi, magari adesso ci sentono. Cioè forse adesso è proprio troppo tardi, in tutti questi anni nulla è cambiato da parte loro e da parte di chi le rappresenta, con il loro consenso ovviamente, quindi loro danno praticamente contro a chi chiede che loro vengano in ultima analisi destituiti da quella divisa. Perché torneranno a vestire la divisa? Assolutamente sì. Stando alle disposizioni attuali, adesso per loro scatta un periodo di 6 mesi di sospensione dal lavoro all'inizio dell'anno nuovo, quindi loro torneranno nelle stesse identiche condizioni di prima, a poter, con un buffetto diciamo, Dice, ma no, dai, non fare così. Potranno rifare esattamente la stessa cosa. Questo mi fa molta, molta paura. Cioè, lei vorrebbe che non tornassero a fare i poliziotti? Vive questo come un oltraggio? Un oltraggio è un pericolo. Cioè, io la vedo proprio come una ingiustizia gravissima. A questo punto, non solo nei confronti della mia famiglia, un oltraggio nei confronti di Federico, ma un pericolo per tutta la società. Cioè, se un omicidio viene tollerato dalle istituzioni, vuol dire che viene anche avvallato. L'istituzione adesso deve allontanare quelle persone. Semplicemente non permettendogli di fare quel lavoro lì, che ne facciano un altro, qualcosa di non pericoloso per la collettività. Sono un pericolo. Patrizia Moretti, perché lei ha accettato questa intervista? Perché questa, come molte altre, perché è necessario dare voce a Federico e a tutti gli altri, a tutte le altre vittime delle forze dell'ordine. Purtroppo c'è una differenza di forze, devo dire. Cioè, chi ha il potere, ed è vero, cioè, si fanno, come dire, è veramente un abuso di potere quello che hanno esercitato sia con l'omicidio di Federico che con i depistaggi di cui parlavamo poco fa. Cioè, è farsi forza di quella posizione per una esercitare violenza, perché Federico l'hanno picchiato mezz'ora fino a ucciderlo, e poi coprire quello che è accaduto. Cioè, loro non possono essere al di sopra della legge. La legge deve valere per tutti, e forse, come in altri stati, quando ad infrangere la legge sono dei funzionari dello Stato, le pene devono essere maggiori, esemplari. Chi può, lei ha detto, istituisca il reato di tortura, che proprio questo prevede anche nella proposta di legge. Sì, esattamente. Credo che sia una delle soluzioni, penso ce ne siano tante. Comunque deve cambiare la formazione, la cultura all'interno della loro formazione. Penso ci siano tantissime brave persone che fanno quel lavoro, però non, proprio queste non credo che possano tollerare di essere equiparate a degli assassini che continueranno forse a ritenere giusto quello che hanno fatto. E quindi procedere in questa direzione di pulizia, di chiarezza, di trasparenza sarebbe benefico, lei dice, anche per le stesse forze dell'ordine, che dovrebbero forse unirsi in questo tipo di richiesta. Patrizia Moretti, grazie per questo tempo con noi. Sapete qual è l'ultimo stato che ha introdotto il reato di tortura come legge? Proprio lo Stato Vaticano. Ci lasciamo ora per il traffico, torniamo tra pochissimo. Spunti di vista, i mille aspetti dell'attualità. Vabbè, se non l'avete riconosciuto questa musica, siamo perdonati, mi metto nel mucchio, ma c'è qualcuno con noi che l'ha riconosciuta sicuramente. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno, buongiorno. Jespe Jensen, giornalista freelance danese, oggi protagonista del nostro Visti da Fuori, cioè come vedono l'Italia coloro che la conoscono minimamente perché ci abitano, ma sono portatori di un'altra cultura. Prima di tutto, cos'era questo brano che la regia le ha regalato? Ma diciamo che ha messa molto di calcio, perché è il nostro inno nazionale. E le abbina l'inno nazionale al calcio? Sì, diciamo solitamente, perché è anche come quando gioca la nazionale italiana, è l'inno che si suona sempre, quindi. Una frase non molto patriottica, direbbero i suoi connazionali, ma quanti siete? Sì, lo so. Quanti siete in Italia, Jesper? Più o meno di danesi? 4, 5, 129, non lo so. No, è difficile dire, perché non c'è una comunità vera e propria. Quindi non credo che esiste una cifra proprio consolidata. Posso indovinare 1000 forse, un pochino sparsi ovunque. Cioè persone che magari ci sono venute per affari in prevalenza, immagino, e poi per ragioni personali si sono fermati, lei dice. Non c'è una... Sì, sì, diciamo, persone venute per un misto fra affari, la bella vita, sentimenti e vari motivi personali. La bella vita è uno di quei cliché che circola sull'Italia anche dalle parti di Copenaghen? Sì, diciamo, certamente chi vive l'Italia fuori, cioè chi vede l'Italia dal di fuori, ha un'opinione un pochino, diciamo, chiamiamola turistica, fra virgolette, mentre chi vive in Italia sa bene che ci sono molte sfumature. Per esempio, cioè lei è arrivato e aveva questa opinione di sole, mare, vita spensierata e poi ha colto delle zone d'ombra, Jesper? Sì, questo sicuramente, perché più tempo uno sta in Italia, più si rende conto quanto è complessa come società. Cioè, diciamo che è un pochino come quando si comincia a occuparsi di una cosa, più sai di questa cosa, più ti rendi conto che non saprai mai tutto. È un orizzonte che si allontana, questa volontà di conoscere l'Italia, ma lei la racconta ai suoi connazionali, innanzitutto per quali testate lavora? Io lavoro per una testata danese come corrispondente, che è più o meno equivalente a l'Espresso in Italia, ma poi siccome lavoro freelance come si chiama anche, questa testata? Si chiama Weekends and Vision, è una testata per la quale scrivo soprattutto di cultura, poi collaboro con riviste in molti altri paesi scrivendo in inglese. E quali sono le tematiche che ha trattato recentemente sul nostro paese? Di cosa le hanno chiesto di occuparsi i suoi editor? Oppure è lei che fa le proposte? Non so come funziona. Sono io che faccio le proposte in base a quello che io ritengo interessante in quel momento, quella stagione. Per esempio ho appena finito un articolo sull'anniversario dell'Arena di Verona. Poi ho fatto vari. Che è un sito conosciuto ai danesi. Sì, assolutamente. Poi ovviamente ogni stagione ha i suoi argomenti. Adesso fra alcuni mesi ci sarà per esempio Euro Chocolate a Perugia. Ho scritto un articolo perché le riviste sono già avanti 3-4 mesi. E a parte questi eventi, festival e aspetti culturali, le è mai capitato di trattare gli usi e i costumi degli italiani? Sì, diciamo che questo fa un pochino parte anche quando si deve diciamo, confezionare un servizio culturale. Adesso oggi come oggi non mi occupo più di politica, però in passato lo facevo. Lei potesse esportare qualcosa di questo paese che ha capito di non conoscere, diciamo così, l'Italia, dovesse portarlo ai suoi connazionali in Danimarca, anche qualcosa di non trasportabile nella realtà, siamo nel campo teorico, cosa esporterebbe, cosa copierebbe, cosa mutuerebbe? Ma sicuramente la tradizione gastronomica, tutto ciò che si mette in bocca che solo crea questo? No, diciamo, questo è solo cioè, una a parte questo cose. Che va da sé, diciamo così. Sì, no, diciamo, perché ci sono anche sicuramente altri paesi in cui c'è una bella tradizione gastronomica. In Italia è particolarmente vivace, particolarmente fondata, come sappiamo tutti. Che altro? Che altro? Poi c'è anche essere l'estroversi degli italiani solitamente rispetto ai danesi, che sono un pochino più chiusi come carattere. C'è la famosa fantasia che si applica anche perché si è costretti a vivere e a sopravvivere. L'arrancarsi, per esempio, questo è un i danesi sono coccolati dalla società, sono presi per mano dalla culla fino alla morte, quindi non c'è la stessa intraprendenza che si conosce e che si vede in Italia. La necessità aguzza l'ingegno in questo paese, secondo sì, lei? Sì, esatto, sì. Ma quando le capita di tornare in Danimarca e sedersi a tavola con i suoi amici danesi e raccontare le ultime avventure, le ultime cose che ha osservato, perché le chiederanno naturalmente di questa sua esperienza nel bel paese, bel paese inteso come Italia, devo precisarlo con i danesi perché secondo l'UNESCO voi siete il paese più felice della Terra. Sì, sì, lo so che ci sono questi sondaggi che spesso determinano questo fatto. Ma quando io vado in Danimarca, ahimè, se posso permettermi di spendere due parole sulla politica, la domanda classica da alcuni anni è ovviamente come mai gli italiani votano Berlusconi. E lei lì come si ingegna a rispondere? Io devo fare un lungo discorso perché trovare una la prende risposta, larga. Sì, una risposta facile non c'è. Quindi bisogna partire con un lungo racconto. Ma cos'è che suona così incomprensibile a loro? Ai danesi o a chi vive all'estero in genere? Perché questa è una domanda ricorrente, la troviamo un po' negli incontri con tutti i corrispondenti. Qual è la parte incomprensibile? Il conflitto di interessi, i processi, la volgarità di certe situazioni pubbliche a cui noi italiani ormai siamo abituati? Qual è la parte scandalosa secondo lo straniero? Sì. Diciamo che secondo il mio punto di vista, mentre l'elettore italiano che si trova nella cabina a mettere la croce si guarda molto spesso una sola cosa, cioè il proprio portafoglio, dove posso ricavare un vantaggio. Grazie Jesper Jensen. Devo concludere perché stiamo per dare la linea al GR. Spunti di vista. I mille aspetti dell'attualità. Che bello, che vita, che paradiso vivere in Italia. E ce l'hanno ricordato anche i corrispondenti stranieri. Ancora buongiorno da Irene Zerbini, 7 minuti dopo le 9. Abbiamo concluso il nostro colloquio conversazione con Jesper Jensen, giornalista freelance danese, e ritorneremo domani con qualcun altro che ha ancora così l'avventura di occuparsi di noi, di raccontare l'Italia sui giornali, sulle radio, sulle televisioni e anche sui blog stranieri. Oggi vogliamo chiederci, perché questo è un altro aspetto che tra l'altro sottolineano coloro che vengono soprattutto dal Nord Europa e dal Nord America in Italia, è giusto dare l'elemosina agli invalidi, per esempio, che incrociamo spesso ai semafori? È giusto, nel senso che in qualche modo stiamo aiutando un bisognoso, o invece non è quello che stiamo facendo quando allunghiamo quella famosa moneta, ma in realtà alimentiamo il racket dell'elemosina? Ve l'abbiamo chiesto e vogliamo sentire le vostre opinioni e a volte i vostri dilemmi, perché sono domande che anche gli automobilisti si pongono. Scrivetecelo al 349-238-6666 oppure chiamate in trasmissione, perché no, 800-24-0024. Già da un po' non faccio l'elemosina, ci segnala Serena, e questo perché sono tanti quelli che incontro agli angoli delle vie, in stazione, e non basterebbe uno stipendio, soprattutto il mio di 800 euro e oltre sono in cassa deroga. Ma ecco, poi quei soldi finiscono nelle tasche di quei poveri cristi a cui io li ho dati, si domanda un'altra ascoltatrice. E ancora la situazione analoga di Serena viene ripercorsa da un altro ascoltatore che ci dice: guardate, era e sarebbe bello poter aiutare tutti, ma non riesco più proprio per la mia situazione. Quindi incentivare il racket con le elemosine ai poveri mutilati, forse addirittura provocati, e ai bambini addormentati con droghe, io non me la sento. Questo è Gerardo da Vicenza. Diverse voci, intanto anche una risposta, scusate, una domanda che era rimasta in sospeso, e mi fa molto piacere che siate stati voi, gli ascoltatori, a trovare la soluzione a questo quesito. In Italia i danesi sono 2.335, nel caso vi avesse tolto il sonno questa notte. tutte. Grazie, grazie all'ascoltatore che ce l'ha segnalato. Torniamo invece al racket dell'elemosina, come comportarsi. Pierfrancesco Maiorino, assessore alle politiche sociali e culturali e della salute del Comune di Milano. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti. Senta, lei è un intollerante, assessore. Ha detto: non date l'elemosina ai disabili. E come risponde a chi le muove questa accusa? Ma che intanto è una cosa che non mi sorprende, perché spesso quando si affronta questo tema c'è chi veramente confonde le cose. Siamo in un periodo così, in cui non è semplicissimo determinare quelle che sono le scelte chiare e limpide nei comportamenti. Detto questo, io penso che dare l'elemosina alle persone che si trovano negli angoli delle nostre strade in stato di sfruttamento non voglia dire aiutarli, ma voglia dire semplicemente incentivare la catena dello sfruttamento presente, e catena che va stroncata evidentemente con azioni come quella avvenuta a Milano di carattere repressivo, con interventi delle istituzioni, nel mondo del terzo settore e anche però, perché no, con gesti di singoli cittadini. Tra poco continueremo a capire cosa dovrebbero fare i cittadini secondo l'amministrazione milanese e non solo. Prima però un background, un contesto che dobbiamo fornire. Lei ha parlato di questa azione repressiva avvenuta a Milano. Per raccontarcela meglio, saluto qualcuno che il lavavetri ai bordi delle strade e anche l'operatore di call center l'ha fatto, un giornalista decisamente creativo che si sporca le mani in prima persona. Sandro De Riccardis, buongiorno. Benvenuto. Buongiorno a voi e a tutti i radioascoltatori. Sandro De Riccardis, giornalista di Repubblica, e ci ha raccontato ieri delle condanne al racket dell'elemosina. Dunque, per la prima volta anche pene pesanti inflitte per chi sfrutta questi invalidi. Ci riassuma, se posso darti del tu, Sandro, riassumici la vicenda, certo, giudiziaria. Sì, è una vicenda che riguarda un paio d'anni di indagine, un'inchiesta portata avanti dalla Procura di Milano, dalla Direzione Distrettuale Antimafia e dalla Polizia Locale, che ha scoperto che appunto dietro agli storpi, i malati, gli anziani, le donne con bambini piccoli, ai semafori di Milano, c'era un vero e proprio sfruttamento. Direi una vera e propria organizzazione criminale strutturata, dove c'era un clan di rumeni che aveva importato dagli orfanotrofi, dagli ospedali, dalle cliniche psichiatriche della Romania persone che loro pensavano potessero impietosire appunto ai semafori. E in questo modo loro sono riusciti a creare un vero e proprio business dell'elemosina. Ma quando parliamo di business, no? Dovendo quantificare, sì, quanto rende, ed è terribile dirlo così, ma questo è naturalmente il calcolo fatto da questi sfruttatori, ma quanto rende un accattone, sì, invalido a un incrocio, a un'organizzazione criminale? Ma nei giorni in cui io sono stato in strada e ho cercato di parlare con qualcuno di loro, ho saputo insomma da loro stessi quanto era la loro capacità, diciamo, produttiva. C'erano alcuni che riuscivano a portare a casa in un giorno anche 100-120 euro. Se si moltiplica questa somma per il numero di accattoni che ci sono ai semafori, che in quel periodo, quando questo clan degli Shaban, che è stato poi disarticolato dall'inchiesta della magistratura, era al culmine della sua potenza e della libertà di azione, si parla di 200-300 persone che gestivano a Milano e nell'Interland. Insomma, sono organizzazioni che potremmo paragonare a vere e proprie organizzazioni criminali transnazionali, perché hanno basi in Italia, in Romania, sanno come reclutare le persone, sanno come importarle, sanno come corrompere alle frontiere dell'Est Europa la polizia. È una organizzazione strutturata e ramificata. C'è stata anche una quantificazione da parte della Procura di 1 milione di incasso, ci racconti tu in un articolo. 1 milione, addirittura sono stati bloccati dalle forze dell'ordine 2 anni fa un'auto in direzione Est Europa con delle persone a bordo, naturalmente 150.000 euro in contanti, tutte fatte ai semafori. Allora ritorna la domanda di oggi: è giusto fare l'elemosina? Si alimenta il racket, ci dicono gli ascoltatori. Un altro ci scrive: sì, è vero, c'è il rischio di alimentare il racket, questo è Fabrizio che ringrazio, però io preferisco correre questo rischio piuttosto che negare un piccolo aiuto a un bisognoso. Dunque, assessore Maiorino, come vede, c'è funziona questo meccanismo dell'impietosire calcolato da questo racket? E lei proprio ha detto ai milanesi, e non solo, non date questa elemosina ai disabili, l'ha detto così a cuor leggero, cioè le sembra semplicemente che girare la testa dall'altra parte sia la soluzione che ci aspettiamo da una giunta comunale anche? Ma evidentemente no, ma infatti non ho detto certo solo questo, e non lo dico certo a cuor leggero, nel senso che come dire, faccio riferimento a valori che sono quelli del cittadino che vi ha scritto, che vuole aiutare la persona bisognosa. Il punto è capire cosa serve realmente per aiutare le persone bisognose, questo è il vero tema. E allora oggi noi possiamo da una parte non fare l'elemosina, proprio perché, quindi non dare, diciamo, soldi a chi li chiede ai bordi delle strade, proprio perché, come ricordava con la consueta efficacia De Ricardis, siamo di fronte a un fenomeno ramificato e organizzato. Dall'altra però possiamo fare diverse altre cose, partendo proprio dal punto di vista dei cittadini, non solo ciò che devono fare le istituzioni, poi ci vengo, ma i singoli cittadini possono ad esempio donare alle organizzazioni del terzo settore, del volontariato, alla Caritas piuttosto che alla Casa della Carità e alle tante associazioni ed esperienze che nelle nostre città, Milano come tante altre, come in tanti altri casi, vivono, sono presenti e fanno anzi la forza di una politica sociale che oggi per fortuna non è più svolta solo dalle istituzioni, oppure possono praticare direttamente azioni di volontariato. Quindi Maiorino, lei sottolinea, la cosa che io dico è cerchiamo di aiutarli, ma aiutarli intelligentemente. Intelligentemente in un altro modo. Cioè, quindi facciamo. Il suo non è un invito da intollerante, da esasperato e basta, non date l'elemosina ai disabili, perché è abbastanza irrituale, chiaramente lei si è assunto dei rischi pronunciando queste parole pubblicamente, ne era ben consapevole, è abbastanza irrituale un invito di questo genere, vista, diciamo così, l'area di valori come la definita da cui proviene. Guardi, se posso permettermi, io non solo sono convinto dell'irritualità, ma non parlerei se non avessimo in un anno e mezzo aumentato, come abbiamo fatto raddoppiandoli, i posti ad esempio per i senza tetto nella città di Milano nei periodi dell'emergenza. Cioè, intendo dire che non è che ritengo di potermela cavare con l'appello ai milanesi, perché poi i rappresentanti delle istituzioni hanno delle responsabilità e svolgono delle funzioni che devono portare avanti. Il tema però è, interroghiamoci sul fatto che quel centesimo o quell'euro vada veramente a buon fine. Il punto è semplicemente questo. Il tema, dunque, l'abbiamo chiarito. Ora, tornando a Sandro De Riccardis, ci hai raccontato, tu da giornalista infiltrato come sei stato ai semafori, questo racket, ci hai raccontato la condanna da parte del sistema di giustizia, ma noi vorremmo capire anche che tipo di vita fanno queste persone che tu hai incontrato qui a Milano, dietro l'angolo? Chi sono? Dove vengono tenuti? E in che condizioni vengono tenute dai loro carcerieri? Sì, io vorrei anche dire che sono sostanzialmente d'accordo con l'assessore Maiorino, perché bisogna anche dire che quelle persone che furono liberate un anno fa da quell'operazione di polizia sono in parte tornati in Romania, una ventina, e fece scalpore il fatto che una quindicina di quei lavavetri tornarono dopo pochi giorni agli stessi semafori perché non sapevano cos'altro fare, avevano rifiutato tra l'altro anche l'aiuto del comune, i posti nei dormitori. Quindi è vero che ci vuole un aiuto a chi si occupa nel terzo settore, soprattutto del recupero di queste persone. Che adesso vengo alla sua domanda, queste persone hanno vissuto per anni segregate in baracche sporche alla periferia della città, in aree dismesse, vecchie cascine, palazzi abbandonati, e venivano prelevati alle 6 del mattino, portati nei punti di maggior traffico, e lì stavano 10-12 ore al giorno, anche sotto il sole, fino a che non venivano riportate a casa con dei pulmini, oppure avevano le indicazioni. Ma quando Sandro dice a casa, sì, cosa vuol dire? Dov'è che vengono riportati questi mendicanti al termine del turno ogni giorno? Sì, quando la polizia municipale entrò in questi accampamenti, trovò delle baracche di lamiera dove questi qui erano tenuti dentro, queste vecchi, anziani, giovani, erano legati a volte anche con le catene, ricevevano come cena un pacco di crackers, un pezzo di formaggio, una zuppa di pane, cioè era questa la loro condizione di vita. Per questo sia se portavano del denaro al campo oppure se tornavano a mani vuote, comunque facevano una vita miserabile. E quindi avranno salutato come salvatori le forze dell'ordine che li hanno liberati da questa situazione? Il problema è che queste persone hanno vissuto nel terrore per anni, non conoscono alcun'altra legge se non quella della violenza, quindi quando hanno incontrato la polizia, i servizi sociali, hanno comunque avuto paura di cambiare la loro situazione di vita, hanno paura della vendetta dei clan, che sono capaci anche di raggiungere le loro famiglie d'origine in Romania, ed è provato anche da alcune informative degli investigatori che chi si ribellava, chi scappava, veniva poi chiamato dai parenti che erano in Romania per dire di comportarsi bene, di fare quello che i loro capi gli dicevano di fare. Anche per cui sono situazioni senza via di uscita, sono state ribattezzate non a caso schiavitù, è la schiavitù di oggi, e proprio di schiavitù parla anche la Commissione europea, e con noi oggi c'è il portavoce della Commissione europea agli affari interni, Cecilia Malmström, con noi Michele Cercone che parla perfettamente italiano. Buongiorno Michele. Benvenuto. Buongiorno. Noi stiamo dunque illustrando un problema che si concretizza in Italia sotto gli occhi di tutti, ai semafori, agli incroci delle vie, ma che in realtà ha bisogno di una guida internazionale per poter essere risolto. Il problema, da una parte, della sofferenza e dello sfruttamento di queste persone che già nascono in condizioni di estremo bisogno, orfani, invalidi, persone forse addirittura storpiate volontariamente perché rendano di più in questa che è un'odiosa tratta degli esseri umani. E l'Europa cosa fa? Guardi, abbiamo una serie di strumenti che abbiamo messo a disposizione degli Stati membri. Si parte dall'aspetto legislativo puro, quindi una direttiva, ossia una legge europea che tutti gli Stati avevano l'obbligo di mettere in atto entro aprile di quest'anno. Purtroppo non tutti l'hanno fatto, siamo soltanto a 11 su 27, l'Italia si sta adeguando, speriamo che questo possa avvenire il più presto possibile. Quindi regole uguali per stabilire quali sono i crimini, per stabilire sanzioni che siano comparabili, soprattutto per intervenire e proteggere in maniera concreta le vittime. Accanto a questo un'altra serie di iniziative non legislative ma altrettanto importanti, la creazione di un centro, di una centrale europea che smiste, aiuta, coordina la lotta degli Stati membri contro il traffico, una strategia con 40 misure concrete che vanno dal sostegno concreto finanziario alle organizzazioni non governative fino a piattaforme di vario genere per la sensibilizzazione sul problema. Ci muoviamo a 360 gradi perché, come ha ricordato, questa è la schiavitù dei tempi moderni. Stiamo parlando ufficialmente di cifre che ci dicono di circa 23.000 persone, 23.000 vittime identificate nell'arco degli scorsi due anni in Europa, ma questa è soltanto un'idea di base, la punta dell'iceberg. Possiamo dire che ci sono in Europa in questo momento centinaia di migliaia di schiavi reali che vivono accanto a noi, che non vediamo, che vediamo solo nei casi in cui la situazione diventa eclatante, in cui vengono identificati, ma stiamo parlando realmente di schiavi accanto a noi, in un momento, in un periodo storico in cui ritenevamo, pensavamo che questo non fosse più vero. 23.000 persone, cioè questa è una cifra, come lei ci ha detto, approssimata per difetto, perché in realtà potrebbero essere centinaia di migliaia. Intanto, cosa fare? Voi date l'elemosina anche alla luce di quanto illustrato finora? Vi sentite quando date quella moneta che state alimentando il racket, o semplicemente un impulso che non potete controllare, cioè quello di aiutare un bisognoso? Succede tutti i giorni che persone si interroghino proprio su questo. Voi come vi regolate? 800 24 00 24. Pronto, buongiorno a Francesco. Sì, buongiorno. Io mi regolo che ho smesso di fare l'elemosina. Vivo a Vicenza, in centro, e mi sono reso conto come effettivamente siano degli schiavi. Vedo tanti finti questuanti, o meglio, sono dei questuanti, ma che in realtà sono muniti regolarmente di cellulare, oppure vedo alcuni che non appena raccolgono un po' di soldini vanno subito a comprare il gratta e vinci, oppure vedo altri che vanno subito a bere e così via. Quindi lei ha smesso di darlo perché teme che ci sia un effettivo stato di bisogno, questa è la sua sensazione? Perché sono, capisce, perché sono sfruttati. Da dove chiama Francesco, mi scusi? Vicenza. E a Vicenza quanto spesso, insomma, questo fenomeno dell'accattonaggio, quanto spesso si incontra, quanto è evidente? È notevole, perché soprattutto le persone anziane si lasciano convincere, diciamo, sono compassionevoli, e soprattutto nei giorni di mercato. Il giovedì a Vicenza in centro c'è un grande mercato, e dalle città vicine, da Padova, da Verona, arrivano ondate di questuanti, di elemosinanti, che si trasferiscono proprio a seconda delle giornate di mercato. Grazie, grazie. Quindi anche questa è la fotografia di Vicenza, non difforme da quella delle altre città italiane. Vediamo la provincia di Lodi. Pronto, buongiorno. Buongiorno, sono Marius. Marius, buongiorno. Io avrei da fare una proposta per queste persone qua. Se, la faccia. Secondo me. Lei di che nazionalità è? Sono rumeno. Bene, bene, così. Proprio da dove arrivano più bisognosi, come dite in trasmissione. Esatto, ci dica. Secondo me se farebbe una legge europea con fondi europei direttamente, anziché che fondi nazionali, secondo me sarebbe più giusto, più onesto per queste persone qua essere aiutati a casa loro, perché alla fine dei conti, se queste persone qua li convincono a arrivare qua o da un'altra parte di Spagna, da tutte le altre, come quello che succede in Italia succede anche in Francia, Parigi o le grandi metropoli, secondo me sarebbe più giusto che siano aiutati, però non dallo Stato, perché gli Stati certe volte si dimenticano di queste persone qua. Invece se fosse un fondo europeo, gestito direttamente europeo, secondo me queste persone arriverebbero molto, ma molto meno. Perché chiaramente loro non sono viaggi fatti o spostamenti fatti per scelta, e quindi in questo modo si aiuterebbero le persone e si risolverebbe il problema all'origine. Marius, grazie per questo suo contributo. Chiamo in causa subito la Commissione europea, almeno il portavoce della Commissione europea agli affari interni, oggi con noi, Cercone. È possibile questa soluzione tracciata da questo nostro ascoltatore rumeno? Ma intanto non dimentichiamoci che stiamo parlando di criminalità organizzata, che spesso è alla base di tutto questo, quindi questo pone già un grosso ostacolo. Volendo dare un'interpretazione forse un po' più allargata dell'idea, se parliamo di sostegno a fasce della popolazione che sono spesso minoritarie o più deboli o che appartengono a minoranze etniche che vanno sostenute, questo succede già a livello europeo, esiste già una strategia per esempio per il sostegno e per l'inserimento nella società dei Rom, tutto questo però non può essere fatto a livello europeo calando dall'alto fondi o sostegni. Qui stiamo parlando della necessità di riforme strutturali. Se prendiamo l'esempio specifico dei Rom, parla di inserimento nel settore dell'istruzione, nel campo dell'istruzione, si parla di inserimento sociale, professionale. Queste sono riforme strutturali che richiedono molto tempo, non possono essere e che devono essere recepite dai singoli stati, ci sta dicendo Cercone. Esatto, perché non possiamo avere uno stampo che poi caliamo sui singoli certo, paesi. Dall'alto, allora lì veramente la lotta e le polemiche sulla sovranità nazionale infurierebbero. Ora, queste le possibili soluzioni tracciate, cioè togliere terreno anche a questa criminalità organizzata, aiutando alla fonte chi tra i bisognosi poi incappa in queste reti e agire sul territorio. Ma c'è stato questo assessore, oggi nostro ospite, Maiorino del PD qua a Milano, che ha detto qualcosa i cittadini lo possono fare, volete aiutare? Non date quelle elemosine ai disabili al semaforo, semmai aiutate organizzazioni che agiscono nel volontariato. Voi come la pensate? 800 24 00 24, torniamo insieme tra poco. Spunti di vista, i mille aspetti dell'attualità. Minuti dopo le 9 e ancora stiamo cercando di capire come si risolve questo problema del racket, o almeno come si argina, visto che a livello europeo diverse iniziative sono state messe in campo, vanno recepite dai singoli stati, una quantificazione del fenomeno della schiavitù e del traffico degli esseri umani è stata fatta e le cifre sono impressionanti ed è incredibile pensare che ce ne accorgiamo solo quando un po' ci danno fastidio, bussano al vetro dell'auto o incrociamo lo sguardo di una ragazzina che si prostituisce ai bordi della strada, a volte poi per scoprire che è anche un bambino travestito da bambina. Sono storie terribili queste, ma non sono frutto della fantasia. Buongiorno a Lionello Mancini. Lionello Mancini è un giornalista del Sole 24 Ore, ma è qui in veste scrittore perché è anche autore del libro L'onere della toga. Ho fatto un riferimento un po' pesante perché l'abbiamo letto proprio nel tuo secondo capitolo di questo Onere della toga, queste storie di schiavitù e queste storie terribili che magistrati impegnati in prima linea sono riusciti in qualche modo a scovare, a risolvere qui a Milano. Ma raccontare sempre questa schiavitù e questa condizione di estrema sofferenza dal punto di vista della giustizia, delle sentenze, riesce ad alimentare anche quell'impressione che agiamo sempre in campo criminale e abbiamo sempre a che fare con criminali, o che spesso, perché questo è un assioma nella mente di molti, tutti coloro che sono rom, per esempio, appartengono a questa etnia, sono immancabilmente criminali. Non è un rischio? Assolutamente sì, hai perfettamente ragione. E quello che io descrivo nel mio libro, perché è vero, insomma, quello che dici tu, c'è anche il caso di un piccolo bambino rom, è un caso per fortuna ormai chiuso, risolto, questo bambino, ex bambino, ora maggiorenne, ha un'altra identità, eccetera, ma veniva fatto prostituire vestito da bambina, stiamo parlando di un bambino di 7 anni, agli angoli delle strade con il padre che girava intorno per verificare che tutto andasse secondo i loro piani. Veniva anche abusato nella sua tribù, nel suo ambiente, dai parenti, eccetera. Però sono storie estreme ed è esattamente come dici tu, cioè non è possibile affrontare un tema così delicato e complesso. Ecco, vorrei puntare, anzi segnatelo, complesso. Aspetta problema... che adesso prendo nota, mentre tu lo fai in radio non puoi controllare, ma ho scritto complesso con doppia S, non ho sbagliato, credo, lo spelling. Sì, è un tema complesso, chiaro. Sì, che secondo me è molto rischioso affrontare. Ma qual è l'alternativa, Lionello? Se non lo si affronta partendo da fatti, partendo da sentenze, sì, partendo da numeri, come lo si può... non voglio dire eliminare, perché sarebbe utopico, ma quantomeno arginare, quantomeno mettere in agenda tra le emergenze anche della politica? Ma guarda, io penso dal mio punto di vista, appunto, e al di là di questo mondo estremo che ho toccato, così come sono estremi, cioè, due giorni fa i giornali, gli stessi che riportavano la cronaca di questi arresti, di questo racket di mendicanti, riportavano anche il ragazzo milanese che telefona alla polizia perché il padre separato stava picchiando e stuprando la madre, e un altro, e un vigile urbano che rapinava i clienti delle prostitute. Cioè, qui non è un problema di etnia o di carattere, diciamo. Una cosa molto giusta la dicevano un paio di persone che sentivo prima, sicuramente l'ascoltatore romeno e forse anche il signore della Commissione Europea. Cioè, questo non è un problema che si può affrontare da un punto di vista, diciamo, di una legislazione nazionale, perché i confini semplicemente non esistono più. Ma detto questo, io vorrei, non so se è ancora in linea Maiorino, vorrei esprimere il mio totale disaccordo con la sua presa di posizione, di cui colgo tutta la valenza, diciamo, di stimolo e di provocazione. Maiorino è con noi, lo ricordiamo per chi si fosse magari sintonizzato da poco, è l'assessore che ha detto, e moltissimi sono gli ascoltatori che si accodano a lui, che invece hanno fatto proprio questo invito, non date l'elemosina ai disabili perché così alimentate il racket. Ecco, allora io trovo molto sbagliato e pericoloso, almeno quanto descrivere i Rom o gli Zingari come una etnia di ladri o di schiavisti, eccetera. Io trovo molto pericoloso che un uomo politico, un amministratore in questo caso, ma la differenza non è questa, dia, sia pure, ripeto, come stimolo e provocazione, ma delle indicazioni di carattere strettamente individuale. Io penso che se fossimo in un bar e delle persone normali come me, come te, come un altro, discutessero, ma tu fai l'elemosina? No, io non la faccio perché lì poi... Però invece tu dall'assessore cosa vorresti? Io vorrei solo la seconda parte di quello che ha detto, e cioè io dico questo, se ho ben compreso, perché comunque, ed è vero sicuramente, abbiamo potenziato i servizi sociali, eccetera, eccetera. Quindi va benissimo l'invito a sostenere le organizzazioni e anche l'amministrazione, perché no? Anche lo Ma Stato, non che... entrate nel suggerimento individuale ai cittadini, questo lo si può fare, tu dici, in un bar. Al tavolo di casa terribile. Propria. Invitare la gente a non essere caritatevole è una sciocchezza. La gente deve essere caritatevole, la gente deve capire che fortuna ha a nascere in un paese che sarà sgarrupato quanto si vuole, ma fortunato, ricco, benestante, in cui la fame non c'è più, come l'Italia. Allora, perché io, cittadino, devo stabilire che quel centesimo che io do a quel disgraziato è un centesimo che va al racket, e perché quelli che pagano il pizzo non sono centesimi, migliaia di euro che vanno al racket, quelli che in cambio di questa cosa comprano qualcosa non sono soldi che vanno a un racket? Non è questo il punto. È un'amministrazione pubblica. E tu dici anche il pallone che compriamo i nostri bambini, allora è fatto. Ma naturalmente. Sarà da un'amministrazione pubblica ti aspetteresti altro. E risponda subito Pierfrancesco Maiorino, è qui con noi, assessore alle politiche sociali e cultura della salute qui al Comune di Milano. Tra l'altro sono più i sostenitori della sua azione, devo segnalare, tra gli ascoltatori, tra poco gli daremo voce, che i critici, come sottolinea invece il giornalista e scrittore Lionello Mancini. Maiorino, dica. No, ho ascoltato il ragionamento di Mancini, devo dire che non mi convince, però, perché il punto non è mica quello di dire che il valore della carità sia un valore sbagliato, anzi, o della solidarietà, anzi. Il punto è capire cosa davvero è solidarietà e cosa davvero è carità. Io oggi Ma non il punto credo che faceva Mancini era anche degli ambiti, scusi assessore, diceva comunque lei questo invito lo può fare quando è in privato, da assessore si limiti. Ma questa è un ragionamento sinceramente che non comprendo, nel senso che il punto vero invece è proprio quello di sviluppare più interventi su livelli molto differenti, come si diceva giustamente in relazione a una politica che deve essere una politica europea, anche non solo nazionale, anzi mi viene da dire innanzitutto europea, attraverso azioni locali riguardanti progetti sociali, interventi dei servizi sociali, come stiamo facendo noi, come stanno facendo diverse altre città, e anzi vorremmo avere anche più risorse disponibili per questo. E poi io le scrive un ascoltatore? Le scrive un ascoltatore, già che risponde anche a questo, sì. Perché non manda più vigili il Comune di Milano? Beh, intanto sottolineo che l'intervento repressivo a cui oggi facciamo riferimento è stato sviluppato grazie al lavoro della polizia locale, ma al di là di questo, quindi magistratura e polizia locale, come veniva ricordato, e ovviamente servono, infatti ci servono più mezzi, su questo proprio in questi giorni i comuni stanno lottando, sviluppando un'azione di forte pressione quantomeno, governo, sì, proprio per avere più mezzi. Però mi faccia concludere, scusi, il tema vero è che comunque ci può essere anche una scelta del cittadino in relazione a cosa è utile sviluppare rispetto agli interventi solidali. Io non credo che fare la carità, che dare l'elemosina a una persona che è vittima di un meccanismo di sfruttamento sia davvero efficace. Preferisco che quelle risorse o anche del tempo messo proprio, messo a disposizione, venga dato alla Caritas piuttosto che a un'organizzazione che nell'ambito di una progettualità effettiva di promozione, aggancio, inclusione della persona sviluppa il proprio più lavoro. Sistematica, insomma. È stato fatto un riferimento, immagino, non certo rispetto alle cose che dicevo io, da parte di Mancini, forse non ho ben capito, al tema di non generalizzare, e ci mancherebbe pure, sarebbe gravissimo se generalizzassimo, e io non sto certo generalizzando, anzi mi trovo oggi un po' paradossale, perché di solito siamo dipinti come quelli che sono amici dei Rom a Milano, ma oggi mi trovo, sì, quindi, lei si trova con questo doppio... Con questo doppio ruolo, anzi venite accusati di essere troppo amici dei Rom. Ma va bene così, il punto è certo, non dobbiamo sviluppare una generalizzazione, anzi dobbiamo dire che ad esempio, come stiamo cercando di fare a Milano e come vorremmo poter fare con maggiori mezzi, non solo a Milano ma anche in tante altre città, un grandissimo tema riguarda l'emergenza costituita dai bambini delle comunità Rom, rispetto a cui va garantito il massimo di lavoro per permettere loro di essere effettivamente inseriti nel percorso scolastico ed educativo. Eppure il clima è sempre più esasperato, lo si capisce e dai toni di chi ci scrive al 349-238-6666, c'è anche chi ci dice come si fa a non essere discriminanti assolutisti con i Rom, è acclarato che sono quasi tutti criminali. Poi però non si firma. No, ma io 349 non la condivido. Io questa affermazione non la condivido. Sì, pericolosa. Spero. Non mi aspetto che lei condivida questa affermazione, né lei né nessun altro che occupi una carica pubblica, e questo è semplicemente additare qualcuno per l'appartenenza a un'etnia. Dopodiché abbiamo anche chi sostiene invece la proposta di Maiorino e chiede, invoca addirittura che una campagna che disincentivi la pratica di dare soldi ai mendicanti, sempre nell'ottica che lei sottolineava, Maiorino. Ma sentiamo un po' anche gli ascoltatori all'800 24 0024. Raffaele, buongiorno. Pronto? Buongiorno. Grazie per la pazienza, per aver atteso. Dunque, qual è la sua posizione? L'elemosina si deve fare? Sì? No? Ma allora, io diciamo che tendenzialmente la posizione è che non si debba fare, ma più che altro perché? Io vedo chi dà l'elemosina a certe categorie di mendicanti, come i disabili o come altri, come dei veri e propri complici, perché queste persone che vengono portate dalla Romania rapite e utilizzate non verrebbero portate se non ci fosse qualcuno che gli dà dei soldi, evidentemente. Ma lo stesso si può anche, ai Rom che nelle metropolitane utilizzano i bambini, se quando viene il Rom... O alla prostituzione, allora. O alla prostituzione, quella da strada, che evidentemente sono schiave, no? Se uno ha le... Abbiamo perso Raffaele. Dario, buongiorno, pronto? Dario, pronto? Pronto? Buongiorno. Ma senta, il mio intervento sta diventando praticamente inutile, in quanto non ripeto quello che è stato detto, cioè glielo confermo in breve. In brevissimo, che abbiamo il traffico tra poco, Dario. Dunque lei, immagino, sia contrario all'elemosina. Sì, ma non per principio, voglio dire, sì, a un certo punto se i medici hanno fatto lo sciopero l'altro giorno per ottenere qualcosa, non è che io sono che siano contrari al fatto che i medici curino la gente. Cioè, se noi facessimo momentaneamente uno sciopero dell'elemosina, per dire, a questo punto, dopo un po' di tempo, questi che sfruttano questi qua non avrebbero più nessuna convenienza, il che non vuol dire non aiutarli. Certo, ho capito, per togliere terreno. Cerchiamo di aiutarli in modo razionale attraverso gli istituti, diamo tutti questi soldi agli istituti che poi controlliamo che li usino bene e vadano ad aiutare questa gente, togliendo, diciamo, terreno al racket dello sfruttamento. Dario, grazie. Spunti di vista, i mille aspetti dell'attualità. Minuti alle 10. Ancora buongiorno da Irene Zerbini. Stiamo per concludere questa discussione che ci ha impegnato sulla questione dell'elemosina. E voglio richiamare in causa Lionello Mancini, perché, come hai sentito, tu che sei l'autore del libro L'onere della toga e sei un giornalista e un osservatore, la tua opinione è decisamente fuori dal coro. Tutti si sono schierati con Pierfrancesco Maiorino e con il suo appello, che è stato interpretato come un appello alla responsabilità, non all'intolleranza, naturalmente. Non diamo l'elemosina ai disabili, perché così non facciamo altro che alimentare lo sfruttamento. E tu dici sì, che questo sfruttamento esiste, l'hai documentato, hai raccontato delle storie terribili, non per questo dovremmo dimenticarci di essere dei privilegiati e non mettere mano a quell'euro che cammina lì anche a volte sul tappetino della macchina mentre guidiamo. Della macchina. Sì, no, ma infatti io non, se appunto l'assessore Maiorino dice, come ha detto, mi sembra nel suo ultimo passaggio, no, io ritengo che sia un errore fare questo, fare l'elemosina è un conto. Allora, se però non ho sbagliato lui a dire nella prima versione, hanno sbagliato i giornali a titolare non fate l'elemosina. Questa è la frase che non va detta. E non perché magari non sia giusta, non abbia un senso o, come dicevo prima, non sia accostata a dei programmi in cui, ecco, l'amministrazione dovrebbe dire quello che devono fare le persone, non quello che non devono fare. Dicevo prima la parola complessità, questo è un tema complesso nel quale chi amministra, così come chi fa le leggi a livello nazionale, non deve mandare dei segnali o lanciare delle provocazioni, deve amministrare, deve fare delle cose. Il resto, perché complesso spesso in Italia finisce per essere accostato a irresolubile, certo, cioè diventa infatti, rassegnazione, tanto è complesso, certo, l'avremo sempre, il mestiere più vecchio oppure, del mondo. Oppure quando vedi, finalmente il PD si sta avvicinando a quest'idea che questi qui fanno dei guai. Allora, questo per carità è un rischio che chi fa politica corre già sempre. Non vedo perché moltiplicare questo rischio con delle affermazioni che, ripeto, sono state riprese malamente da un titolo di un giornale, ma una frase del genere, fai il giornalista, non fate l'elemosina, non è accettabile. Fai il giornalista, tu sai come funziona con i giornali, chiaramente so, è stata estrapolata la frase più effetto, certo, perché in bocca a Maiorino avrebbe fatto più effetto titolare non date l'elemosina ai disabili che dire aiutate questo il volontariato. Devono purtroppo stare ancora più attenti esattamente per questo. E Sandro De Riccardis, giornalista di Repubblica, tu sei stato in mezzo a loro per parecchi giorni e dunque sei andato là dove ognuno di noi si ferma, perché noi ci fermiamo dietro il finestrino della nostra macchina e possiamo solo immaginare delle situazioni di sofferenza, di sfruttamento. Hai parlato di persone incatenate estrema, tu sei andato e hai potuto testimoniare in prima persona dal tuo punto di vista. È vero che tu fai il reporter, non fai l'amministratore, non sei colui che è incaricato di risolvere questo problema, però che idea ti sei fatto? Dove sarebbe opportuno agire e come? Ma la mia idea è che ho sentito parlare prima di carità, il problema è fare una carità intelligente, no? Sapere discernere se quell'euro che si dà in quel momento concreto serve per aiutare o per alimentare un racket. Io mi è rimasto impresso a un incrocio qui a Milano a Laurenteggio, in uno di questi viaggi in strada, un lavavetri che aveva più o meno un'età apparente di 70 anni, che non aveva documenti, non si sapeva che nome avesse, perché era stato fermato da una pattuglia dei vigili. Aveva soltanto un foglietto a quadretti con due numeri e un numero di cellulare. Erano i numeri di due autobus con i quali lui doveva tornare a casa. Probabilmente quell'anziano non sapeva neanche in che città si trovasse, non sapeva parlare, non sapeva l'italiano. Non credo che dare dei soldi a una persona come questa serva ad aiutarlo a cambiare la sua condizione, anche perché al palo vicino c'era un ragazzo che lo teneva sott'occhio, no? Lo controllava, perché poi agli angoli delle strade ci sono gli storpi, ma ci sono anche i finti mendicanti che controllano gli altri. Quindi, cani bastonati sono stati definiti, e non in senso metaforico in questo caso, sì, perché proprio di bastonate spesso periscono, finiscono la propria giornata. Allora chiamo in causa ancora una volta gli ascoltatori velocemente, poi il portavoce della Commissione Europea agli Affari Interni per capire come agire. Costel, buongiorno. Pronto? Buongiorno. Buongiorno. Prego, buongiorno, dica. Signora. Sì, la sua idea. Io ce l'ho una mia idea, sì, per questa qua. In tutti questi paesi che veramente ha problemi con queste cose, un'Unione Europea deve intervenire a chiudere subito le frontiere. Lei, un controllo. Anche lei ha passato una frontiera, immagino, per arrivare qui. Da dove viene? Sì, ma io ce l'ho 11 anni qua e lavoro. E lavora sempre, dice. Adesso il nostro paese prende 50 euro, prende pullman, vengono a Milano, tutta l'Europa, e cosa fanno? Non va bene così. Chiudere le frontiere. Chiudere completamente, cioè non regolamentare. Non regolamentare, lei Costel invoca una chiusura, non una regolamentazione dell'immigrazione. Ma sì, regolamentazione, quella deve chiudere le frontiere e avere controllo chi esce e chi entra in quel paese là. Grazie mille. E quella governi là, fare una politica di sostenere quelle persone là e dargli qualcosa. Grazie mille, Costel. Poi è molto interessante questa posizione, perché spesso chi arriva in un paese, questo avviene anche con l'immigrazione, e l'immigrazione italiana nelle mete tradizionali, dal Belgio alla Germania all'Argentina al Nord America, i primi a invocare rigore e chiusura sono coloro che già si sono in qualche modo, tra virgolette, sistemati. Buongiorno Walter, pronto? Buongiorno, io telefono da Torino, sono un operatore sociale, mi sento un po' coinvolto perché sono decenni che lavoro nel territorio di Torino, sulla strada proprio, e conosco molto bene la situazione. Parlo per il comune di Torino, sono proprio contrario a non dare l'elemosina ai bisognosi, perché sulle strade italiane, specialmente a Torino, sono moltissimi ormai gli italiani che chiedono l'elemosina. Quindi lei è contrario a darla o a non darla? Non ho capito bene la formula. Sono contrario a non darla. Perché quindi lei è favorevole a darla? Scusi, parliamo cioè in maniera semplice. Deve essere una questione di cuore, prima cosa, sì. Di umanità. Sì. Poi da buon cristiano comunque so che se una persona mi fa pena o che vedo che veramente ha bisogno, mi sento di dare questa elemosina. E però sono lei va a alimentare il racket, le ricordano, no, cosa guardi, risponde? Il racket sarà il 5-10% di tutta questa storia che abbiamo parlato oggi, non è di più, perché ci sono migliaia di persone a Torino tutti i giorni, ci sono giocolieri, gente che cerca nell'immondizia pezzi di rame, apre i bidoni, i cassoni, ci sono i cartoneros. Perciò non è vero che c'è questo racket. Secondo me c'è, ma è marginale, sarà il 4-5%. Io sono in mezzo alla strada tutto il giorno e il racket esiste, ma pochissimo. Sapete, gli dico ancora una cosa, poi chiudo. Allora, non bisogna dare soldi agli onlus, non bisogna dare soldi al comune, perché poi questi soldi vengono gestiti male e vengono mandati tutti dai burocrati. Perciò se io do un euro al comune di Torino, poi alla fine a questa povera gente non arriva niente. Io vedo che il comune di Torino ormai non ha neanche più soldi per i veri bisognosi, che sono i vecchi, chi veramente ha degli handicap, ha chiuso tutti i rubinetti. Come facciamo a pensare che diamo un euro al comune di Torino e poi il comune li renda ai rom? È impossibile. E quindi inefficace anche la strada tracciata dall'assessore Milano. Grazie Walter da Torino, esperienza significativa, perché come avete sentito porta con sé anche il patrimonio di chi lavora in prima linea e osserva. Punti di osservazione tutti interessanti, sono tutti punti di vista, spunti di vista, anzi a proposito vi ricordo anche l'email della della trasmissione nel caso vogliate continuare questo discorso importante. Spunti di vista @radio24.it o nel caso vogliate dare suggerimenti per argomenti delle prossime puntate, le prossime trasmissioni. Il portavoce della Commissione Europea per le conclusioni in 30 secondi e poi ci salutiamo. Michele Cercone, dunque, che fare? Pronto? Innanzitutto credo che bisogna ricordare che ci sono due direzioni in cui muoversi. Una, la lotta alla criminalità che è dietro questi crimini efferati e disgustosi. La seconda è quella del sostegno alle vittime. Tutto questo a livello europeo si fa attraverso una direttiva che è già stata concordata, che ora però deve essere messa in atto dai singoli stati. Azione internazionale, ombrello internazionale, ma sensibilità da parte dei singoli stati. Questa è la strada da seguire. Grazie da Irene Zerbini, 57 minuti dopo le 9, la linea va al GR.